Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Covid-19, polmoni a rischio anche dopo la guarigione. L'osservazione arriva dalle pneumologie italiane coordinate dalla Società Italiana di Pneumologia. A Obiettivo Salute il professor Luca Richeldi, presidente SIP e direttore del Dipartimento di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma. I primi controlli nei pazienti che hanno avuto la polmonite da virus SARS-CoV-2 ci dimostrano che a distanza di qualche settimana circa un terzo dei pazienti non ha completamente recuperato la funzione respiratoria che aveva prima di questa polmonite. E in particolare il volume, cioè quanta aria entra nei polmoni, rimane ridotto e la capacità di ossigenare il sangue è anch'essa ridotta. E questo si riferisce principalmente ai pazienti che hanno avuto forme di polmonite più grave. Professor Richeldi, quali sono gli strumenti per monitorare la situazione clinica del paziente? Gli strumenti che sono utilizzati per monitorare nel tempo la funzione respiratoria in questi pazienti sono la spirometria, che misura i volumi del polmone insieme allo scambio dei gas, e l'attack del torace ad alta risoluzione, che si rivela particolarmente utile in quei pazienti che avevano segni di polmonite e che in questo momento, a distanza di qualche settimana, hanno ancora dei segni di fibrosi del polmone, cioè delle cicatrici, che a questo punto non sappiamo se andranno via completamente, se rimarranno o se, come speriamo di no, potrebbero anche progredire. E quindi per questo motivo è importante che questi pazienti vengano monitorati. Professore, quali sono le terapie ad oggi disponibili per il trattamento e il recupero della funzionalità respiratoria compromessa dall'infezione polmonare da coronavirus? Non abbiamo trattamenti specifici per la fibrosi conseguente alla polmonite da Covid-19. Come in altre forme di fibrosi post-infiammatoria, vengono normalmente utilizzati farmaci cortisonici, perché sono appunto degli antinfiammatori molto efficaci. In questo caso non sappiamo se siano la cura giusta, ma nei casi in cui le conseguenze della polmonite da virus SARS-CoV-2 sono particolarmente evidenti, vengono utilizzati e le prossime settimane e i prossimi mesi ci diranno se e quanto siano efficaci. Grazie, per oggi è tutto. Vi aspetto come sempre sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute per le nostre interviste a tu per tu. Oggi insieme a noi la dottoressa Adele Sparavigna, dermatologa, ci insegna a riprenderci cura della nostra pelle, dei nostri capelli e delle nostre unghie per un benessere a 360 gradi. Vi aspetto e non mancate, una buona giornata da Nicoletta.